Camerata. Sanctus, Sanctus Dominus. Benvenuti, amici di Radio Cage, benvenuti a Testa Croce Show. Testa Croce Show è per la 16ª volta, vince Gab. Sì, io in realtà al 50%. Il fantasma più di uno, Gab, diciamo. Stavolta. Sì. Stavolta tocca a lui. Ho dimenticato a casa il naso, scusatemi. Ecco. Cose che succedono. Vi terranno compagnia dai microfoni di Radio Cage, parlando di religione, del mondo delle religioni, spiritualità e tutto il mondo che vi gravita intorno. E sì. Abbiamo sentito la nostra bellissima sigla. Beh, Onde ormai... d'amore a tutti. Tra l'altro ricordiamo l'iniziativa di Liberamente Servo, sì, che giusto, ogni giusto. Giovedì dalle 18.30 alle 20.30 manda onde d'amore a tutto l'universo, a cui noi ci uniamo sempre. Ci uniamo ovviamente, naturalmente, con molta allegria. E abbiamo un ospite prestigiosissimo stasera. Sì, andiamo subito a salutare. Andiamo subito a salutare. È Mauro Bombieri, anche conosciuto come Parabhakti. Buonasera a tutti, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. E questo sarà appunto il tema principale della puntata. Certamente, sì. Direi di passare a questo punto al solito almanacco di Testa Croce. Prima diamo i nostri contatti. Allora, per scriverci in diretta, l'email è testacroceshow@gmail.com. Oppure con Skype su Testa Croce Show. E ricordiamo anche il nostro blog, testacroceshow.blogspot.com. Ci scusiamo per il ritardo con cui siamo partiti stasera, ma ci faremo dilungheremo un poco. Ci faremo perdonare arrivando fino alle 20.30, quindi Parabhakti sarà con noi per tutta la puntata, quindi ascoltateci. E se volete fare delle domande all'ospite, naturalmente noi siamo qui. Anzi, vi invitiamo fortemente, come sempre, a interagire con noi, e in particolar modo quando ci sono gli ospiti, un ospite comunque prestigioso come Parabhakti. Assolutamente sì. A questo punto sì, passiamo all'almanacco di Radio Cage. Allora, oggi facciamo gli auguri a, naturalmente celebriamo i santi. Questi sì. Qui, Sant'Agnese Cao Cui Ying, Sant'Albino di Angers e di Vercelli, sono due vescovi. San Bono di Cagliari, San David di Menevia del Galles, Santa Domnina Vergine in Siria, Santa Eudocia, San Felice Terzo, San Leone di Bayonne, San Leoluca, San Pietro Hernandez Mercedario, San Rudesindo, Silvio, auguri a Silvio, Beh. E San Siviardo, e anche infine San Sweet Berto. Sweet Berto. Il dolce Berto. Auguri a tutti coloro che si chiamano così. E celebriamo anche la scomparsa dal mondo materiale, per così dire, di Gabriele D'Annunzio, di Jackie Coogan, attore che vi ricorderete probabilmente per Il Monello di Charlie Chaplin e altri film di Chaplin, nonché più recentemente lo zio Fester della famiglia Addams. E l'avvento, direi, nella dimensione corporea, la nascita quindi di Frédéric Chopin, che non ha bisogno di ulteriori aggiunte. Come no? Chi è? Beh, il compositore e okay, pianista. Okay, sì. Poi facciamo gli auguri a Ron Howard, che io ricordo solamente per Happy Days, non per tutto il resto. Javier Bardem, l'attore spagnolo, e anche Justin Bieber, che a detta di alcuni coincide anche con la figura del demonio, a detta di alcuni ascoltatori, sì, che in realtà è un ragazzino, ricordo, integralista cristiano, ha anche due tatuaggi che rappresentano Cristo sul suo corpo, quindi... Sì, è un po' inquietante la cosa. Beh, insomma, sono nati il primo marzo... Nati il primo marzo anche Marziale, Botticelli, Glenn Miller e Shoghi Effendi, che è il custode della fede della comunità Baha'i, di cui parleremo in una delle prossime puntate. Sì, con grande piacere. Nasce, metaforicamente, anche il primo marzo Rockerduck, nella storia Zio Paperone, il kiwi volante, vabbè... Uno dei malvagi di Paperopoli. Sì, insomma. Esatto. E facciamo gli auguri di compleanno a Gene Gnocchi e Roberto Ciuffoli. E c'è lutto nel mondo della musica. Sì, sì. Perché è di oggi la notizia, appunto, che Lucio Dalla ci ha lasciati. E vogliamo ricordarlo con la sua voce da tenore, grandissima voce, sua spiritualità, anche perché era, insomma, aveva molta fede, no? Sì, sì. E ricordiamo con un pezzo. Siamo pronti a mandare un pezzo. È tratto dall'album omonimo del 99. Ciao Lucio. Ciao. la colpa di non so di chi, un grido che si leva da questa canzone verso il male nel mondo, un tema che richiederebbe un intero ciclo di trasmissioni e che comunque in parte abbiamo anche trattato, in altre puntate, certo, sicuramente. Dunque vi ricordiamo qui su Testa o Croce questo primo marzo e siamo con Parabhakti, sì. Presidente di Villa Vrindavana, se non sbaglio. Vrindavana, ecco, lasceremo dire a lui direttamente. Anzi, sì. Partiamo subito con un'autopresentazione, sì, diciamo, e un'introduzione alla religione degli Hare Krishna. Al movimento. Sì. Allora, chi sono questi Hare Krishna? Intanto sentiamo chi. È una bella domanda. Intanto vi dico, ovviamente è una delle tradizioni che arrivano dall'India, ma se voi andate in India e dite alla gente conosci gli Hare Krishna, questi vi guardano abbastanza stupefatti, perché non significa assolutamente nulla. Se voi volete capire quali sono le origini della tradizione, dovete parlare di Gaudiya Vaishnavismo. Vaishnavismo è quella tradizione che prevede appunto il riconoscimento di una figura di Dio, quindi anche lì iniziamo a sfatare un po' di miti. Quando si parla di religioni indiane, generalmente si pensa ad un panteo di dei, si pensa ad una religione politeista, invece qua vi dico subito che noi siamo assolutamente monoteisti. C'è anche questa, sono anche le correnti, sì, ovviamente. Ci sono sicuramente anche delle correnti, ma devo dire che la maggior parte, una buona parte degli indiani sono monoteisti. Allora, quindi quando voi vedete un tempio della tradizione Vaishnava, un altare della tradizione Vaishnava, non state vedendo diversi dei messi sull'altare, ma state vedendo diverse manifestazioni di Dio. Quindi l'aspetto polimorfo, ma non politeista, di Dio. Quindi la Trimurti per voi, la tripartizione fra le divinità principali, Vishnu, Brahma e Shiva, non la riconoscete oppure... Abbiamo un'interpretazione un pochettino diversa da quella che si può leggere nella maggior parte dei testi scolastici. Allora, per noi Vishnu è il creatore, diciamo colui il mandante, il creatore di questo mondo materiale. In realtà è un'espansione di Krishna, noi crediamo che sia un'espansione di Krishna quella che è appunto delegata a generare questi mondi. Ma Brahma chi è? Brahma è una figura assolutamente individuale, quindi non è una divinità Brahma, ma lo intendiamo come una posizione all'interno dell'universo. È l'architetto, è colui che tecnicamente si mette a pensare e a generare questo mondo. Quindi è un ruolo? È un ruolo, è un sì. ruolo che assume la divinità. Noi pensiamo che, non la divinità, no. L'essere vivente. Mm. In realtà chiunque potrebbe diventare Brahma, perché Brahma è una posizione all'interno dell'universo. Vishnu no. Vishnu è una figura spirituale, una figura legata a Dio, una manifestazione di Dio stesso. Di Krishna, quindi sì. Ovviamente. Poi sì. Qui potremmo andare nella teologia. Sì, certo. Per il momento no. Siamo anche quasi appunto all'ora di cena, quindi. Certamente. Posso fare solo con una battuta. Vishnu chi è? Vishnu è Dio quando si mette i panni da lavoro. Mi sembra una definizione breve, semplice da ricordarsi, ma anche significativa. Ecco, Hare Krishna è il significato etimologico? Allora, Hare Krishna, mentre in India non ha quasi significato dire Hare Krishna, invece dovete parlare di una tradizione ultramillenaria, probabilmente la tradizione più antica che l'uomo conosca, che è quella del Vaishnavismo. E quindi quando volete identificare noi questi Hare Krishna che vedete per le strade, dovete dire ISKCON. ISKCON vuol dire International Society for Krishna Consciousness. È questo movimento che è stato fondato da Bhaktivedanta Swami Prabhupada nel 65, poi se volete possiamo descrivere, raccontare un pochettino la sua storia. E lui cosa ha fatto? Ha voluto portare in un modo molto più popolare, alla portata di tutti, una conoscenza antichissima, che prima era semplicemente, non era disponibile in Occidente, ma era relegata veramente a poche persone e nei salotti culturali principalmente. Quindi lui, il suo grande merito è stato quello di portarla ad un livello di popolarità. È chiaro che poi la gente, non conoscendo in Occidente, in tutto l'Occidente, ci sono delle difficoltà a riconoscere un qualcosa di così specifico, e quindi gli Hare Krishna diventavano coloro, questi ragazzi che soprattutto saltellavano per le strade, cantavano questo mantra Hare Krishna, quindi venivano chiamati gli Hare Krishna. Quindi in Occidente noi siamo conosciuti più come Hare Krishna che in realtà. Quindi incidentalmente, insomma, è successo questo. Devo dire che non ci dispiace, ci siamo lasciati chiamare Hare Krishna e continuiamo a lasciarci chiamare Hare Krishna. Però ecco, è importante comprendere che questo non è un neo movimento nato quasi 50 anni fa, ma è semplicemente un'espressione, un movimento che vuole veicolare un messaggio antichissimo, che è quello del vaishnavismo. Questo per dare proprio certamente un ordine sulle radici. Quindi abbiamo detto Società Internazionale per la Coscienza di Krishna, questa è diciamo una traduzione italiana del nome del movimento, che leggo che si basa sull'insegnamento di un mistico bengalese, no? Quindi appunto Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sì, Prabhupada, però leggo che appunto si rifà a un insegnamento ancora precedente, no? Risalente sì. Al 500. Esatto, stai parlando di Chaitanya Mahaprabhu. Sì, esatto. Allora, se puoi raccontarci brevemente la storia di come Prabhupada recupera questa forse tradizione, no? Questo messaggio sì. E lo porta nell'Occidente. Allora, per il Gaudiya Vaishnavismo, per il Vaishnava, Chaitanya Mahaprabhu è una figura divina, quindi non è semplicemente un mistico. Se voi andate a ricercarlo su internet o sulle enciclopedie, troverete diverse spiegazioni di chi è Chaitanya Mahaprabhu. Qualcuno pensa che sia un mistico del 500, qualcun altro pensa che sia un grande filosofo, perché sicuramente lui era una persona che ha dato dei grandissimi insegnamenti. Era addirittura, quando era giovanissimo, era responsabile delle scuole filosofiche più prestigiose di tutta l'India. Ma per tutta la tradizione Vaishnava lui non è che l'ultima manifestazione di Dio sul pianeta Terra, e viene definito come Channa Avatara. Channa vuol dire nascosto, l'avatara nascosto. Mentre Dio nelle sue manifestazioni appare in una maniera eclatante, visibile perlomeno per una parte della popolazione, lui non ha questo desiderio, ma ha questo desiderio di poter, attraverso un atteggiamento molto compassionevole e misericordioso, portare alle persone, a tutto il mondo, una via che possa riavvicinare le persone alla spiritualità autentica, quindi aiutarli a realizzarsi spiritualmente e al termine di questa vita poter ritornare in una dimensione spirituale. È un nobile intento, sicuramente. Sì, secondo noi è portato direttamente da Dio stesso, nella figura di Chaitanya Mahaprabhu. Allora, la storia di Chaitanya Mahaprabhu è interessante andare a leggerla, perché Chaitanya Mahaprabhu fu proprio il primo a lanciare un insegnamento preciso, ad esempio fu il primo a scagliarsi totalmente contro il sistema delle caste. Questo è interessante. Questo sì. Addirittura lui organizzò dei movimenti popolari non violenti, per cui le persone iniziavano a riconoscersi, perché il suo scopo qual era? Quello di far sì che fosse riconosciuto il valore spirituale che era presente all'interno di ogni persona, indipendentemente dalle sue origini o dal colore della pelle o dalla razza, eccetera. Tra l'altro abbiamo parlato proprio qualche puntata fa degli Agori, che sono un movimento forse a conoscenza che è indiano. Anche loro rinnegano l'esistenza delle caste, sono quei sadhu che hanno abitudini un po' bizzarre, vivono nei terreni crematori, fanno cose un po' estreme per cercare di vincere la repulsione per tutto, perché ritengono che tutto sia sacro, e che anche loro sono tra i pochi che si scagliano contro le caste. Noi siamo totalmente contro il sistema delle caste. C'è una profonda differenza tra quello che è il Varnashrama Dharma, o la struttura sociale che possiamo studiare nella tradizione vedica, nella cultura vedica, che era un sistema in cui le persone potevano ritrovare la loro spiritualità e evolversi attraverso questo sistema. Ma quindi non c'era una designazione di appartenenza ad una casta piuttosto che un'altra legata alle origini familiari, ma era qualcosa legato strettamente alle qualità dell'individuo. Poi, ovviamente, questa tradizione divina, che per noi è divina, quando è stata lasciata nelle mani dell'uomo, l'uomo l'ha riadattata. Come spesso accade. E ha creato questo sistema abominevole, consentitemi questa parola, che è il sistema... Sì, sì, consentiamo. Sì, sì, consentiamo, proviamo. Direi di fare a questo punto facciamo una pausa musicale. Facciamo uno stacco musicale, ecco. dopo di cui riprenderemo a parlare di Prabhupada. No? Di questa ecco, come sempre chiediamo ai nostri ospiti di proporre una traccia da mandare in trasmissione. Io direi di mandarla in questo momento. Sì, facciamo presentare direttamente a... lanciare direttamente al nostro ospite. Allora, perché hai scelto questo brano, George Harrison, My Sweet Lord? Beh, perché forse molti lo sanno, ma non tutti forse se lo ricordano, George Harrison ha avuto una lunghissima interazione con il nostro movimento. Lui ha conosciuto personalmente Prabhupada, il fondatore. Devo dire che Prabhupada ha vissuto per diversi mesi all'interno della casa, se non sbaglio, in Inghilterra, dove gli Hare Krishna vivevano. Un'altra chicca può essere il nostro famoso tempio che c'è alle porte di Londra, il Bhaktivedanta Manor, è stato donato da George Harrison. Ed è un prestigioso comunque stereo. Tutti i Beatles hanno avuto dei contatti. Harrison è proprio un Hare Krishna. Cioè un Hare Krishna diciamo che poi forse lui non ha mai voluto essere completamente identificato con quello fino alla fine dei suoi giorni, ma sicuramente ha avuto una lunghissima interazione con noi. Ci sono delle musiche anche che sono state arrangiate direttamente da lui, e delle canzoni come questa famosa che è totalmente dedicata a Krishna. Infatti nella parte finale sentirete il mantra di Krishna. Il mantra di Krishna, sì. Questo è appunto di George Harrison, My Sweet Lord. My Sweet Lord, tra l'altro è un bellissimo pezzo secondo me. Sì, sì. Musicalmente questa è la versione originale, c'è cioè poi una versione successiva. Ci sono varie versioni, quella... sì, sì, questa è quella originale. Ecco, abbiamo sentito My Sweet Lord di George Harrison. Avete George sentito Harrison. Al termine appunto c'è il mantra del Hare Krishna. Sì. Torniamo a parlare quindi di come è nato, come si è sviluppato in Occidente la conoscenza di questo mantra e quindi della Società Internazionale per la Coscienza di Krishna. E appunto Parabhakti ci stava parlando di Swami Prabhupada, giusto? Esatto. Sì. Diciamo, ricollegandoci un attimo a Chaitanya Mahaprabhu, lui appunto 500 anni fa fonda questo movimento spirituale che è destinato a raggiungere tutto il mondo, quindi a divulgare questa conoscenza, questo percorso del Bhakti Yoga, cioè lo yoga dell'amore. Vi ricordo che yoga in sanscrito significa unione, un modo di unirsi con chi? Con l'assoluto attraverso diversi metodi che se volete poi dopo possiamo approfondire. Ecco, a questo proposito, già che abbiamo citato la parola Bhakti, che fa parte anche del tuo nome, sì. Diciamo intanto cosa significa, che è anche bello da sapere. Bhakti è una parola che non è così facilmente traducibile in italiano. Se voi proprio tentate attraverso dizionario, leggete amore, leggete devozione, leggete empatia, è tutto un insieme di sentimenti che descrivono l'amore con qualche altra persona. E secondo noi l'amore reale, quello puro assolutamente, può essere possibile solo con Dio, no? Allora Bhakti è questo sentimento che ci porta all'unione con Dio, ed è interessante ricordare che la Bhakti non è escludibile di nessuno, ma la Bhakti può essere raggiunta attraverso diversi percorsi. Uno è il percorso religioso, un altro possono essere i percorsi legati allo yoga, ma il fine ultimo di tutte queste persone è sviluppare l'amore per Dio. Questo è un concetto molto importante, perché qual è la religione migliore? Qual è il percorso migliore? Beh, quello che ci fa sviluppare. E questa era anche una domanda che ormai è bruciata. No, scusa se anzi diciamo che non ho dovuto neanche porla. Para in sanscrito vuol dire supremo, e Bhakti appunto è questo insieme di amore, devozione, sentimenti particolari verso l'amato. Ma la cosa interessante è che ogni nostro nome spirituale finisce col suffisso das o dasi per le donne, e vuol dire servitore. Quindi tradotto, il mio nome vuol dire servitore della suprema devozione, del supremo amore. Quindi c'è sempre un'umiltà nel nome, perché servitore comunque... Sicuramente, tutti i nostri nomi sono nomi di Krishna o di suoi intimi associati, e noi ci poniamo nella posizione di servitori di, quindi non siamo noi protagonisti, ma noi siamo semplicemente a servizio. Devo dire, noi consideriamo neanche un servizio diretto, ma aneliamo ad essere il servitore del servitore del servitore, quindi ci mettiamo in una posizione molto più umile. Quindi dicevamo Bhakti Yoga, comunque, sì. quando si è interrotto poi. Sì, è il percorso di Prabhupada. Questo percorso, lo yoga dell'amore. Allora, Prabhupada chi è? Allora, Prabhupada, materialmente parlando, visto che hai citato questo termine prima, è una persona che ha avuto un discreto successo all'interno della propria vita, quindi lui era una persona che aveva sviluppato un'azienda farmaceutica ed era destinato a quel tempo lì a diventare uno degli uomini più ricchi dell'India, quindi aveva proprio tutte le carte per poterlo fare. Ma lui non ha mai lasciato questo suo forte propensione per la spiritualità, addirittura fece parte del movimento gandhiano lui all'inizio, fu uno di quelli, non so se vi ricordate la protesta che si faceva a quel tempo contro la dominazione inglese, i ragazzi arrivavano a laurearsi e poi invece di ritirare la laurea la rifiutavano. Era un gesto estremo, sì, di protesta. Lui fu uno di quelli, ad esempio, che non ritirò mai la laurea, però le persone sapevano il suo valore. Ma lui, diciamo che conobbe il suo maestro spirituale, quello che poi divenne il suo maestro spirituale quando era abbastanza giovane, quando era ancora uno studente, e portò avanti tutto questo percorso in cui la spiritualità diventava una cosa estremamente importante all'interno della propria vita. Lui aveva una famiglia con diversi figli, mantenne la famiglia, sviluppò questo suo percorso, diciamo, di benessere materiale, se così vogliamo chiamarlo, fino ad arrivare a un certo punto in cui uscì dalla vita familiare e si dedicò totalmente alla spiritualità. E si ritirò dove? A Vrindavana. Vrindavana è questo luogo a circa 140 km da Delhi, tuttora visitabile, anzi frequentatissimo, uno dei luoghi sacri dell'India, dove Krishna è apparso 5.000 anni fa. Allora lui si era ritirato, era entrato in questa dimensione di sadhu, di saggio, ritirato dalla vita, e si è ritirato per fare che cosa? Per poter studiare, per poter recitare il mantra, per poter associarsi con delle persone che, come lui, condividevano questi suoi obiettivi di vita. Ma che è successo? Lui aveva però una sorta di ordine del suo maestro spirituale, che gli aveva dato moltissimi anni prima. Lui gli aveva detto: tu dovrai andare a diffondere il Bhakti Yoga, lo yoga dell'amore, nell'Occidente. E fu così che Prabhupada, quando arrivò all'età di 70 anni, adesso è molto difficile per un indiano riuscire a lasciare l'India, nonostante siamo nel 2012, vi posso assicurare che le difficoltà sono notevoli, non è come noi. A livello politico? A livello burocratico. Burocratico, a livello sì. Burocratico. Non, noi prendiamo, decidiamo di andare in India, ci facciamo fare un visto, pigliamo, andiamo. Loro hanno bisogno di tutt'altro. E 40 anni fa era molto più difficile, soprattutto se come lui non aveva i soldi, lui non aveva assolutamente nulla. Quindi riuscì, attraverso varie peripezie, a farsi regalare un passaggio su di un mercantile, diretto dove? A New York, la patria del materialismo. Quindi lui partì da questo piccolo villaggetto, dove in realtà la vita scorreva, un villaggetto di campagna, la vita trascorreva in un modo molto semplice e la spiritualità era al centro di tutto, deciso di andare dove? Nel cuore del materialismo, per poter portare un messaggio di spiritualità. A quale luogo migliore, infatti, per cominciare? Sì, in effetti. Lui si mise il suo mese e mezzo giù di lì col mercantile per arrivare a New York, e quando arrivò a New York scese e lui non sapeva da che parte andare, se a destra o a sinistra, perché non c'era assolutamente nessuno che lo aspettava. Aveva un indirizzo di un figlio, di un suo amico, che forse l'avrebbe ospitato per all'incirca un mese, e così fece. Questa persona lo accolse per un mese all'interno della sua casa, e lui incominciò a prendere coscienza di un mondo che assolutamente non conosceva, perché lui non era mai uscito dall'India, conosceva semplicemente certo. La cultura indiana, e incominciò a muoversi. Dopo circa un anno, lui continuava a tradurre e produrre questi suoi libri, traducendo dall'antico sanscrito, e incominciò con i cembaletti, quelli che Carter si chiama, strumento. Questo piccolo strumento, si recò in questo Thompson Square, che è un parco di New York, e si sedette lì e incominciò a cantare il mantra del Krishna. E i ragazzi incominciarono ad arrivare, erano questi momenti un po' particolari della cultura, c'era questa intercultura, la cultura degli hippie che si diffondeva. Poi in America tuttora la gente è abituata a frequentare i parchi ed andare in questi luoghi, e cominciarono a stare con lui, a cantare il mantra di Krishna. E lui iniziò così questo movimento, che nel giro di pochi anni si diffuse in tutto il mondo. Prabhupada rimase 10 anni sul pianeta, in quella veste, nella veste di fondatore. In 10 anni aprì più di 100 templi, che oggigiorno sono diventati più di 600 nel mondo. Quindi lui, senza soldi in tasca, si trasferì dall'India, perché si dice che lui arrivò a New York con circa 40 rupie in tasca, che al cambio attuale sono poco più di mezzo euro. Vabbè, magari allora, non era neanche una moneta convertibile, sì. Quindi praticamente e da nulla lui fondò questo movimento internazionale. Quindi noi pensiamo che abbia avuto veramente una sorta di potenziamento, perché non è una tra l'altro è interessante notare come il modo con cui si è fatto conoscere lì è lo stesso motivo per cui poi oggi siete conosciuti voi, cioè l'aspetto in realtà più esteriore, più scenico, questo canto itinerante, no? Sì. Canto e musica. Sì. Noi continuiamo a farlo, questo canto tecnicamente si chiama Sankirtan. Kirtan vuol dire canto devozionale insieme, sam, insieme con altre persone, ed ha molte funzioni, quindi è una pratica spirituale antichissima. Tante volte la gente pensa: ma questi ragazzi saltellano per le strade così perché sono delle persone bizzarro d'altro. In realtà questa è una pratica antichissima, una cerimonia antichissima che si perde veramente nella notte dei tempi. Quindi noi continuiamo a fare questo, e cosa fa? Ha questa funzione di diffondere questo mantra Hare Krishna, che non è di nuovo identificativo di una tradizione, non è un marchio il mantra Hare Krishna. Il mantra di nuovo è composto da queste tre parole, Hare Krishna e Rama, e sono nomi di Dio. Krishna, Krishna in sanscrito vuol dire colui che tutti affascina, l'infinitamente affascinante. Krishna, qui siamo in Italia, è interessante vedere che Krish è una radice comune anche a Cristo. Sì, vero. Quindi Krish vuol dire affascinante, Krishna è all'infinito, Krishna è all'infinito. Rama vuol dire la fonte della felicità e Radharani è la sua energia femminile, l'energia di piacere, quella, perché Dio ha sempre due aspetti, quello maschile, perlomeno nella tradizione vedica, quello maschile e quello femminile. Quindi l'unione di questi tre nomi di Dio, di questi tre nomi di Dio, forma questo mantra. Quindi per noi sono delle vibrazioni spirituali, assolutamente, queste discendono, vibrazioni che discendono dal mondo spirituale, che sono di proprietà di chiunque, non sono un'esclusiva degli Hare Krishna. Tra l'altro è corretto dire che come mantra, diciamo, è molto antico? Molto antico, sicuramente troviamo dei riferimenti storici della letteratura, nel Garuda Purana, insomma in Purana antichissimi che parlano del mantra e lo considerano la forma di Purana. Sono dei versetti, se non sbaglio, sì, sostanzialmente si possono dei testi antichissimi per capire. Riguardo una curiosità mia personale, no? Gli Hare Krishna sono conosciuti anche come gli arancioni. Sì, diciamo che si faceva un po' di confusione, soprattutto nel tempo di arancione in India e nella cultura vedica è il colore della rinuncia. Quindi si identificano con l'arancione o gli studenti celibi o i sannyasi, gli swami, quelli che hanno preso le distanze da ogni forma di coinvolgimento materiale, diciamo. Quindi è un po' come, qua da noi, per fare un parallelo, il colore nero del prete, no? Della suora, che indica una... giusto per... forse più il saio del frate più che il nero del prete. Sì, ecco, sì. In India, voglio dire, il colore arancione, quando una persona veste gli abiti arancioni, è una cosa estremamente seria. Difatti non è che ci si mettono così gli abiti. Quando ci sono dei ragazzi che studiano, anche che seguono un percorso di formazione religiosa, all'inizio non vestono l'abito arancione, vestono l'abito bianco. Dopodiché, quando prendono questi voti di rinuncia, li prendono in una maniera estremamente seria. Quindi all'inizio noi eravamo conosciuti come arancioni perché? Perché la maggior parte dei ragazzi, quelli che quando questo movimento neonato in Italia, stiamo parlando del 72-73, erano le persone maggiormente coinvolte erano ragazzi giovani. Essendo ragazzi giovani, generalmente non avevano una famiglia, anzi erano pochissimi, e quindi vestivano quasi tutti di arancione. Ma oggigiorno invece, se voi... cioè per identificarsi in un nucleo. Perché erano degli studenti celibi. Certo. Ma se voi oggigiorno vi recate in un tempio Hare Krishna, scoprirete che la maggior parte di questi Hare Krishna sono vestiti di bianco. Ecco, quindi... Perché bianco esatto. Sono le persone sposate. Ecco. Certo. Quindi i bianchi, no? No, sto scherzando assolutamente. Bianchi arancioni. Vabbè, rimaniamo su Hare Krishna, che comunque abbiamo capito non è neanche quello eccessivamente preciso, ma ormai identifica. Sì, sì, sì. Ecco, andiamo con un po' di musica, poi vorrei appunto fare un'altra domanda sul mantra, poi sì, passeremo anche alla domanda esistenziale. Poi ci sarà la domanda esistenziale di questa puntata, sì, che è un momento che gli ascoltatori aspettano. Allora, dunque, cosa ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo, visto che appunto il primo marzo nacque nel 1904, nacque Glenn Miller, lo ricordiamo con uno dei suoi pezzi più famosi, non scritto da lui ma portato al successo, inscindibilmente legato al suo, insomma, la sua attività, al suo repertorio, sì. In the Mood ce lo andiamo a ascoltare, sì. Eccolo. Rieccoci in onda. Eccoci in onda a parlare di Hare Krishna. Hare Krishna. E, dunque, a proposito, abbiamo parlato da poco di Kirtan, sì. E quindi potrebbe essere una buona idea sentirci anche un pezzettino. Abbiamo già ascoltato in parte nella canzone di George Harrison, sì, però sì. Possiamo anche sentirci un... tra l'altro, sì, diciamo che c'è questa caratteristica, no? Che Parabhakti ce ne ha portati vari esempi, no? In CD, sì, ci sono vari appunto stili di rileggere questo Hare Krishna in vari stili, no? Quindi sì. Rock, reggae, addirittura metal, rap. Poi non so quanto siano tutti approvati vabbè, naturalmente. Per però, esempio, dov'è che si possono trovare? Nel sito Radio Krishna Centrale potete trovarli, ma comunque basta digitare Hare Krishna e trovate e se ne trovano siti, tutti gli stili che volete, insomma. E quindi vogliamo sentirne, sì, ci ascoltiamo, se Federico, il nostro tecnico, ci manda un 40 ci ascoltiamo secondi sì. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Ecco, abbiamo sentito c'è un'introduzione un po' più lunga di quanto ci aspettavamo, ma comunque avete sentito poi anche le parole del mantra. Sì. Bene, direi di passare appunto alla domanda, sì, domandone esistenziale. Allora. Dunque, come avrete notato, non abbiamo ancora stabilito il premio del concorso di questa sessione, ma lo faremo al più presto. Intanto comunque siete invitati a scriverci a testacrocesshow@gmail.com oppure sull'account Skype testacrocesshow anche adesso, o anche come commento sul blog testacrocesshow.blogspot.com con le risposte alle domande insomma che intanto vi porremo. Sì, questa è la seconda, ricordiamo la prima, cioè sì. Scienza e fede sono conciliabili e come? Ecco, sì. Un bel argomentone. E adesso andiamo a presentarvi la seconda. Allora, ve la introduco con un pezzo tratto dalla Bhagavad Gita, cioè il canto del Divino Signore, che è una parte del poema epico monumentale, penso sia il più esteso in assoluto mai scritto, che è il Mahabharata, che narra sostanzialmente la guerra fratricida fra i 5 Pandava e i 101 Kaurava, cugini, che cercano di affermarsi, sono in lotta per la corona sostanzialmente. Ovviamente la cosa è più complicata di così, anzi se ci vuol dire qualcosa sul Mahabharata o sulla Bhagavad Gita brevemente per introdurla. Sì, Mahabharata è la storia della dinastia Kuru e quando si parla della Bhagavad Gita si parla di un episodio particolare, specifico, che è il momento che precede la battaglia. Uno potrebbe pensare, ma cos'è? Questa è una delle solite storie delle battaglie per poter possedere un trono. In realtà è molto più complessa, come è stato detto poc'anzi, perché è proprio l'affermazione di un principio. Cioè la spiritualità attraverso, come metodo per potersi elevare, per poter favorire tutta la società, quindi stabilire un sistema corretto attraverso cui le persone possono evolversi spiritualmente, e dall'altra parte invece c'era uno stile in cui la spiritualità, la religione, non veniva esclusa, ma veniva essenzialmente relegata a cerimoniali, a modi relazionali pur benefici, pur partecipi, ma che non portavano a delle finalità particolari. Chi è Duryodhana? Duryodhana è questo re, questo figlio di Dhritarashtra, questo re cieco, che a un certo punto lui vuole assolutamente avere questo trono. E fa di tutto per poterlo ottenere, con l'inganno riesce, fa veramente una serie, servendosi dei suoi figli, della sua discendenza, ovviamente. La sua discendenza, cosa fa? Estromette, abbastanza illegalmente, ma comunque lui aveva le sue ragioni, estromette i Pandava, questi 5 Pandava, che erano i predestinati al trono. E i Pandava non è che se la prendono e cominciano in tutte le maniere a cercare di contrastare Duryodhana, ma in sostanza quello era il loro dovere, perché loro entrambi erano degli Kshatriya. Kshatriya identifica questo gruppo, che sono gli amministratori, i guerrieri, che hanno questo compito preciso, che è quello di governare, quello di amministrare. Quindi il dovere di uno Kshatriya non poteva semplicemente abbandonare e essere lasciato. Quindi loro chiedono a questo re, nonostante queste angherie, un posto dove poter andare a governare. Ma dopo varie vicissitudini, l'ultima parola di Duryodhana fu quella, dice: non vi darò neanche il terreno su cui potete piantare uno spillo per poter governare. Quindi si arriva alla vigilia di una battaglia, sostanzialmente. Si arriva alla vigilia di una battaglia. Dunque, intanto chiedo a Fede di mandare in sottofondo un pezzo di un po' ambient per poter... Un po' mello? Sì, un po' mello. Per caso. In modo da dare un'aura un po' più spirituale anche alla lettura. Allora, dunque, qui siamo praticamente nel momento in cui il semidio Arjuna, che è il guerriero più valente fra i Pandava, alla vigilia dello scontro decisivo fra i due eserciti, decide di non combattere contro il sangue del suo sangue e comunica la decisione al suo cocchiere, che in realtà si rivela essere il divino Krishna stesso. Krishna cerca allora di cancellare i dubbi del guerriero e di esortarlo a compiere il suo dovere. Con queste parole: le tue lacrime sono per chi è al di là delle lacrime, e queste tue parole sono parole di saggezza. I saggi non provano afflizione né per coloro che vivono né per coloro che muoiono, perché la vita e la morte sono destinate a passare, perché noi tutti siamo sempre stati, io, tu e questi re di popoli, e tutti noi continueremo ad essere per sempre, perché lo spirito del nostro corpo mortale vaga dall'infanzia all'adolescenza, sino alla vecchiaia, e quindi in un nuovo corpo. Su questo il saggio non ha dubbi. Dal mondo dei sensi, o Arjuna, vengono il caldo e il freddo, il piacere e il dolore. Essi vengono e vanno, sono di passaggio. Accettali dunque di buon grado, o spirito forte. L'uomo che non è toccato da essi, il cui spirito è fermo, oltre il piacere e il dolore, è pronto per l'immortalità. Ciò che non è reale non si verifica mai, ciò che è reale non può non essere. Questa verità è sempre stata chiara per chi ha il dono di vedere. Lo spirito è indistruttibile, è intrecciato con la sua stessa creazione. Nessuno può provocare la sua fine, perché esso è eterno. Lo spirito dimora in questi corpi, e quando essi hanno finito il loro tempo, esso rimane incommensurabile e indeperibile. Quindi, o grande guerriero, alzati e combatti. Chiunque si creda capace di uccidere o capace di morire non conosce la verità. Ciò che è eterno non può uccidere e non può morire. Ecco, questo ovviamente è una parte della Bhagavad Gita che è un po' controversa, perché spesso si viene interpretata in modo erroneo, ovvero cioè si tende a vedere questa come una giustificazione dell'omicidio, sostanzialmente. Ecco, infatti la domanda che pongo, che è anche un po' provocatoria, e adesso ovviamente risponderà subito Parabhakti, ci spiegherà la giusta interpretazione. La domanda è questa: se lo spirito è immortale, uccidere il corpo è ancora un crimine? Questa è la domanda di oggi. Bella domanda. Intanto premetto che tutta la tradizione indiana è riconosciuta per la sua vocazione non violenta, e noi in assoluto siamo non violenti, e questa è una dimostrazione abbastanza bella. Questo non vuol dire che in India non esistano dei conflitti, anche delle guerre di religione, a volte anche abbastanza accesi, ma tendenzialmente il fondo di non violenza è una costante, un qualcosa di estremamente acquisito. Bisogna andarlo a leggere in maniera attenta. Intanto stiamo parlando di kshatriya. Kshatriya vuol dire, come dicevo prima, guerrieri, vuol dire amministratori, quindi con un compito preciso. Diciamo prima fuori onda, pensate se un carabiniere o un poliziotto che è deputato, diciamo, in qualche maniera ad amministrare, a gestire e a garantire l'ordine pubblico, questa persona quando a un certo punto decidesse no, beh, adesso io alzo le mani, non combatto, non faccio nulla, perché questo va contro i miei principi. Allora si trova di fronte a questa situazione: due eserciti che si stanno fronteggiando, devono combattere, e a un certo punto Arjuna incomincia a manifestare queste sue perplessità. Dice: ma dall'altra parte ci sono degli amici, ci sono dei conoscenti, ci sono i miei stessi guru, i miei stessi precettori, le persone che mi hanno educato, come faccio io a combattere contro di loro? E lui sta manifestando un atteggiamento legato a una comprensione propria del corpo, cioè, quindi lui riconduce tutta questa sua comprensione alla fisicità. Allora, Krishna non è che lo sta esortando a combattere, dice no, tanto per esortarlo a combattere, perché vuole spingerlo a combattere, ma gli sta iniziando a spiegare che esiste una differenza fra quello che è l'esteriorità, il corpo, questa sorta di vestito che noi rivestiamo, e il vero sé. Quindi incomincia a far comprendere ad Arjuna che esistono dei livelli diversi di comprensione. Uno è legato proprio alla corporalità, un altro invece è legato a una dimensione più psichica e un altro è legato alla dimensione spirituale. Allora, non è un'esortazione a combattere tanto per andare a combattere, gli sta dicendo: guarda, tanto questo corpo sarà inevitabile che muoia, perché, mi dispiace dirlo, è una battuta che semmai qualcuno potrà non piacere, ma l'indice di mortalità su questo pianeta è del 100%. Vabbè, di lì non si scappa. Ok, però ricordarlo a volte, insomma. Sì, ecco, sì. Quindi voglio dire, questi corpi naturalmente deperiscono, naturalmente muoiono, sono degli agglomerati di materia che rimangono assieme per un determinato periodo di tempo. Sono dei corpi che hanno una durata più lunga, sono degli alberi che vivono migliaia di anni, il corpo umano in questa era qui ha una durata abbastanza limitata. Quindi Krishna incomincia a prendere lo spunto da questa domanda, da questa perplessità di Arjuna per incominciare ad educarlo. E difatti, prima, questo è proprio l'inizio, il secondo capitolo della Bhagavad Gita, in cui Krishna incomincia a spiegare la differenza tra corpo, psiche e mente. Sì, ecco, questo è il canto secondo, appunto, versetti 11-19, perché volesse andarsi a rivedere. Sono 700 versi la Bhagavad Gita, se ti parla di questo discorso. È interessante quello che hai detto prima, che Krishna, Dio, addirittura in quella circostanza si mette a servizio di Arjuna. Sì, Arjuna ecco, è un uomo come noi, pur elevato sì. che sia, è un uomo come noi, e questa relazione con il divino, con Dio, con la, un das quasi. Con la persona assoluta è veramente al di fuori della comprensione che possiamo avere noi in Occidente, perché noi siamo abituati a vedere questa figura di Dio come questa figura che sta in alto, dove abbiamo questo timore riverenziale assoluto, non possiamo avvicinarlo, alcune tradizioni addirittura non vogliono neanche nominarlo, invece vediamo come questa relazione attraverso il divino possa manifestarsi addirittura in un modo in cui Dio stesso prende il posto di servitore di Arjuna. Sì, prende il ruolo di cocchiere, appunto. Prende il ruolo di cocchiere. Ma vedremo che andando avanti all'interno della Bhagavad Gita, Krishna spiegherà tutte queste differenze e comincerà poi a mostrare tutte le vie dello yoga, le vie per raggiungere l'assoluto. E non parlerà mai di religione. E non parlerà mai di, cioè, o meglio, parlerà di religione, ma non identificherà mai una religione specifica. Quindi Krishna, questo è importante, non è il Dio degli indiani. È Dio di tutti, infatti Krishna non parlerà mai di un luogo geografico, non parlerà mai di una determinata tradizione, ma parlerà di metodi che poi noi possiamo andare a rivedere e possiamo comprendere in base alla tradizione che stiamo analizzando che vie sono, che tipo di percorsi sono. Tant'è vero che poi a un certo punto Arjuna comprenderà questa differenza fra spirito e materia e corpo e riconoscerà Krishna come Dio, quindi lo riconoscerà come suo precettore, come suo guru, si sottometterà a lui, fino ad arrivare al fondo della Bhagavad Gita in cui Krishna dirà, ok, dopo che hai compreso tutti questi aspetti, dopo ti sei illuminato, devi combattere perché quello è il tuo dovere, perché se tu non combatti, la religione avanzerà. La religione non è semplicemente un voler stabilire un principio diverso, ma questo principio per cui le persone devono utilizzare la propria vita per potersi realizzare spiritualmente andrà perdendosi. Dice, la religione avanzerà, quindi non ci sarà più l'opportunità per le persone di potersi realizzare spiritualmente. Tu devi ristabilire il Dharma, devi ristabilire questo principio. Dopo che hai fatto questo, le persone potranno dedicarsi alla spiritualità e potranno comprendere che la religione di nuovo diventa un mezzo. Per poter quindi è un fine più grande, si potrebbe dire. Quindi, intanto qualcuno ha delle cattive letture di questo percorso. Ricordo che Arjuna è un guerriero, quindi lui semplicemente Krishna lo sta esortando a fare quello che è il suo dovere. Sì, sì, dobbiamo contestualizzarlo ovviamente nel contesto indiano. Quindi in una battuta, se volessimo rispondere alla provocazione, no, di Gabriele, quale sarebbe la risposta di Parvati? Cioè se lo spirito è immortale, uccidere il corpo è ancora un crimine? Beh, diciamo che il corpo è mortale, ma nessuno ci dà il diritto di accelerare questo tipo di processo, intanto. Quindi il corpo noi lo consideriamo, è vero, una cosa assolutamente temporanea, ma una cosa da tenere nella massima considerazione. Noi lo consideriamo il tempio dell'anima, il tempio dello spirito. Quindi deve essere tenuto al meglio. Quindi non è un motivo sufficiente, è lo spirito immortale a giustificare non lo... Non è assolutamente un motivo sufficiente, anzi, bisogna proprio pensarla esattamente all'opposto. Questo diventa un dono di Dio e diventa un tempio attraverso il quale potersi esprimere. Quindi solo in casi eccezionali come in questo può essere consentito, diciamo, o accettato, diciamo, l'uso di quella che può essere una violenza per poter ristabilire un principio più elevato. Ma bisogna stare molto attenti su questo, perché Qui stiamo parlando di Krishna che parla con Arjuna, spesso invece gli uomini vogliono sostituirsi a quello e vogliono giustificare le proprie malefatte con... È un punto molto, molto delicato. Ecco, molto delicato. Insomma, in ogni caso, infatti proprio per questo volevo trattarlo di persona con Parabhakti, perché è un passaggio che mi ha sempre lasciato appunto dubbioso. Ecco. C'è una cosa, se mi permettete, da aggiungere, perché... Sì. Diciamo anche quando si parla di spiritualità, quando si parla di spiritualisti, non è che basta nominarsi, autonominarsi o essere nominati da qualcuno attraverso un'istituzione come un religioso per esserlo. Ci sono delle caratteristiche ben precise che devono essere osservate da chi diventa una guida spirituale. Questo è fondamentale. Oggi abbiamo, c'è una enorme confusione nel mondo circa chi sono le guide spirituali. Perché? Perché mancano, generalmente queste guide spirituali non insegnano con l'esempio, e l'esempio invece è la caratteristica prima in cui non tutti dovrebbero seguire, ma una guida spirituale in particolare deve essere il modo in cui lui comunica con noi. Beh, il sine qua non, sicuramente, direi. Certo. Quindi molta attenzione quando noi prendiamo letteralmente delle frasi di Krishna e vogliamo applicarle. Questo è sempre, diciamo che è sempre sbagliato. È un po' il problema dei testi sacri, insomma. Sì, o anche, anche il problema dei testi, in realtà. Sì. Prendere estratti, citazioni slegate dal contesto, bisogna sempre contestualizzare. Infatti, l'abbiamo fatto con abbiamo cercato di farlo. Altro, secondo me è stato chiara la spiegazione. Ringraziamo di essersi prestato a questa lettura corale, sì, no, certamente. Della Bhagavad Gita. Vabbè, è stata concordata precedentemente. No, tutto spontaneo, Gabriele, cosa stai dicendo? No, voglio dire agli ascoltatori che, appunto, se non altro, la tradizione indiana del, non so se sbaglio il termine, ahimsa, no, della non violenza, è assolutamente incontestabile. Incontestabile, ecco. Ed è comunque un punto che dovrebbe davvero insegnare a tutto il mondo, no? Sì, sì, dovrebbe essere un punto di partenza. Bene, allora, ci facciamo un'interruzione musicale, sì, poi sì. Parliamo sì, dello stile di vita degli Hare Krishna. Sì, dunque, sì. Allora, ci andiamo a scontare un pezzo dei Muse dall'album Absolution. E questa è Thoughts of a Dying Atheist. Bene, eccoci tornati, sempre a parlare di Hare Krishna con Parabhakti, ricordiamo, sì. E ricordiamo anche appunto del nostro concorso di cui abbiamo appena posto la seconda domanda e abbiamo avuto subito anche una risposta. Sentiamo. Vi leggo anche la risposta alla prima domanda, cioè il rapporto fra scienza e fede. Francesco Biondi ci dice che secondo lui scienza e fede non sono conciliabili. Per fare un esempio banale, testimoni di Geova e trasfusione di sangue. Sì. Decisamente banale, direi, infatti. Va bene, e poi la seconda, però, la domanda che piccante, oserei dire. Sì, sì, no. E poi la seconda risposta alla seconda domanda è: certo che sì, diciamo che in questa visione, in qualche modo, il corpo e lo spirito si nutrono a vicenda, almeno finché lo spirito non è abbastanza sazio da poter abbandonare la sua preda, fratello. Ecco, una visione sembra un po' vampiresca. Sì, non so. Però è carina. Sì. Se vorrà poi, vabbè, Francesco ovviamente ci sta seguendo, ovviamente se vuole poi precisare, o anche se non vuole, non importa. Comunque ormai abbiamo detto nome e cognome, abbiamo capito tutti che abbiamo ha delle che è stato un strane abitudini. Sì, sì, sì. Sì, sì. Bene, allora, torniamo a parlare con Parabhakti e direi di entrare nella vita della Hare Krishna. Quindi quali sono i valori che ispirano la Hare Krishna e quali sono le sue... pratiche. Sì, diciamo... Beh, intanto mi ricollego a quello che si diceva prima, si è parlato di Ahimsa. Ahimsa vuol dire non violenza, ed è una vera e propria cultura. Molto spesso noi in Occidente siamo abituati a considerare l'etica come un obiettivo o comunque un qualcosa che bisogna raggiungere e poter stabilire. In tutte le pratiche dello yoga l'etica è una premessa. E quindi parto da questo discorso per farvi capire, ad esempio, lo yoga si sta diffondendo, soprattutto lo yoga delle asana, delle posizioni, della ginnastica, si sta diffondendo in tutto il mondo, sta diventando una delle discipline quello più fisico, diciamo. Più praticate in assoluto. Però pochi sanno che anche Patanjali, che era colui che ha strutturato questo sistema dello yoga, dava come premessa l'adesione a tutta una serie di principi, che si chiamano yama e niyama in sanscrito. Certo. Sono dei principi che riguardano interni, dei principi di comportamento verso la società, che potremmo chiamare principi etici. Allora, solo, lui diceva, solo quando le persone hanno questo tipo di eticità interiore, questo tipo di comportamento non violento fondamentalmente verso la società, a quel punto posso iniziare a praticare, a fare le pratiche delle altre. E la IMSHA è uno di questi principi, se non erro. Di questi principi fondanti. Allora, quando si parla di pratiche, questa premessa, per farvi capire che gli Hare Krishna seguono delle pratiche, no? seguono delle regole ben precise, che in realtà hanno la funzione di far che cosa? Di far spostare il livello di coscienza delle persone su di una piattaforma più virtuosa. Perché è dalla piattaforma più virtuosa che si possono apprendere meglio quelli che possono essere gli insegnamenti spirituali. Non c'è una preclusione, ma diventa molto più difficile. Allora, le regole che seguiamo noi fondamentalmente, che ripeto, non sono regole direttamente connesse con la spiritualità, ma sono regole che ci permettono di evolvere. E sono regole che poi potete trovare espresse anche in altre tradizioni religiose, oltre che nello yoga. Sì, allora, certamente. I quattro principi fondamentali del Dharma, della religiosità, della religione, sono la misericordia, la veridicità, la purezza e l'austerità. Allora, detti così, sono questi quattro capisaldi che possono veramente aprire discussioni di giorni, di settimane, cosa sono. Allora, c'è poi traduzione in pratica di quello che bisogna fare. Ecco che allora, quando parliamo del concetto di misericordia, si esprime in un valore fondamentale, quello di non arrecare danno ingiustificato ad altre entità viventi. Questo, ad esempio, è uno dei motivi centrali per cui tutti quelli che fanno pratiche dello yoga o si avvicinano seriamente alla spiritualità, indipendente dalla tradizione, diventano vegetariani. Questo già risponde anche un po' alla domanda che ho posto, fra l'altro, la domanda sull'uccidere, se addirittura appunto c'è una non fare del male semplicemente, e si estende addirittura appunto anche agli animali, a tutte le forme di vita. Anzi, in realtà a qualsiasi cosa che noi facciamo genera della violenza, perché uno potrebbe dire vabbè, ma anche una pianta fa violenza. Sì, tanto questo è assodato che insomma in questo mondo purtroppo ogni specie è cibo per un'altra. Però una cosa è cibarsi dei frutti di una pianta che poi andrebbero a maturazione o cadono, o raccogliere una pianta quando è arrivata alla fine della maturazione. È una cosa invece fare violenza ad animali coscienti, che hanno un livello di coscienza decisamente superiore, in maniera assolutamente ingiustificata per noi, perché si può vivere tranquillamente e benissimo, e oggigiorno la scienza confermo sta anche dimostrando, per esperienza, sta anche dimostrando che devo dire, si vive anche molto meglio con le dovute accortezze, quindi anche seguendo dei regimi alimentari precisi, si può vivere sicuramente più a lungo e meglio essendo vegetariani. Qui non c'è bisogno di scomodare la spiritualità, però è uno dei pilastri. Altri pilastri sono ad esempio l'austerità. L'austerità come possiamo tradurlo? Ecco, una vita sana, evitare di assumere delle sostanze che possono comunque generare un danno al nostro corpo. Quindi noi, ad esempio, noi gli Hare Krishna, ma non solo noi, tutti quelli che fanno yoga seriamente, si astengono, ad esempio, da prendere intossicanti, non fumano, non bevono, non prendono droghe, non bevono alcolici, tutte sostanze che in qualche maniera possono alterare la coscienza psicoattiva della persona. Ecco, nonostante la tradizione vedica preveda comunque l'uso del soma, che è una sostanza che comunque ha queste... Probabilmente psichedelica addirittura, sì. No? Sì, non presente in questo pianeta, ci dicono, ma bisogna andare da altre parti nell'universo per poter trovare la soma, dove vivono persone in altri corpi, in altre dimensioni, dove... Sì. Addirittura questa è un po' sempre... si apre un capitolo veramente scoop. Che ci potrebbe portare. No, beh, io sapevo che esistevano anche delle antiche ricette di preparazione del soma tramite l'uso di piante e poi rituali adesso connessi. Può essere chiamata così, ma la soma, questa soma rasa, questo liquido è un liquido che è presente nei pianeti celesti. Qualche tradizione parla di paradiso, questo luogo in cui si sta tutti bene, non c'è nessun tipo di problema, non ci si deve alzare la mattina per andare a lavorare, non ci sono malattie, non c'è questo. Per noi questa è una dimensione che è presente all'interno dell'universo materiale, quindi sono dei pianeti sicuramente che vivono una condizione diversa da quello terrestre, ma non è la condizione spirituale, non è il cosiddetto mondo spirituale. Potremmo chiamarlo paradiso, può essere uno stile di vita che noi invidiamo. La letteratura puranica ci dà delle indicazioni precise, ci dice la durata della vita su questi pianeti, ci dice addirittura, e qui possiamo riallacciarsi al discorso scientifico. Quindi questo è comune a tutta la tradizione vedica, comunque, non solo al vostro movimento. Sono comunque filosofie e conoscenze. Io ricordo che anche il maestro di Yogananda, no? Yukteswar, mi sembra. Sì, Sri Yukteswar. Sì, gli raccontava, almeno secondo le sue testimonianze, appunto, di questi pianeti, no? Gli faceva proprio sì, i nomi. Sì, giusto. Non so se anche tu, Gabriel, sì, ti ricordi. Ecco. Sì, mi ricordo. Guardate, è un mondo affascinante, voglio dire. Assolutamente. Quando noi stiamo studiando, qui si parla ad esempio di scienze particolari, che è quella la scienza della guerra, ad esempio il Danurveda, no? È proprio un capitolo specifico dove leggiamo testi scritti migliaia di anni fa che parlano di astronavi mosse con il vento solare. Allora dice, queste persone avevano veramente una fantasia fervida, molto più fervida di quella di Giulio Verne, oppure ci doveva essere qualche riflessione. Perché loro parlavano in modo descrittivo, non parlavano in un modo prescrittivo. Quindi era assolutamente, andavano a raccontare di questo tipo di situazioni, parlavano di questo controllo delle energie materiali, quindi il controllo degli elementi della natura materiale per poter generare delle armi. Pensate, l'arma atomica nella tradizione vedica verrebbe considerata un'arma di fuoco, quindi il controllo del fuoco, ma esistevano armi che controllavano l'acqua, controllavano il vento, eccetera, eccetera. E quando noi andiamo a cercare, gli scienziati quando vanno a ricercare la vita in altri pianeti, noi si continua a ricercare la presenza di acqua perché tendiamo ad equiparare sì, certo. le possibili forme di vita a quella che noi conosciamo. Mentre altre scritture vediche ci dicono che in altri pianeti gli elementi materiali costitutivi dei corpi sono semmai diversi. Sì, vabbè, anche io la trovo in effetti una visione un po' miope, ma d'altra parte appunto uomini siamo e questa tendenza siamo è uomini naturale. direbbe Totò. Quindi, sì. Direbbe Totò. Cioè, si apre ovviamente un sì, sì. Ma comunque se veramente possiamo approfondire. Non è possibile però, sì, in questa puntata. Sicuramente faremo felici anche variati. Sì, ecco, per esempio Jacopo. Per esempio, dire uno a caso. Sì. No, e anche me stesso, perché sono argomenti sono affascinanti appunto richiedono una puntata dedicata, sì, addirittura poi, più di una probabilmente. Quindi sì. Ci sono poi altri principi che regolano la nostra vita, quindi ho detto un altro è quello della purezza. E la purezza cosa vuol ne dire? Ne parliamo scusate, dopo, okay. Dopo un brano. Allora, un brano musicale dei Chrome Division, ci ascoltiamo The Magic Man. L'uomo magico, esatto. Bentornati seguaci di Testa o Croce. Sì, discepoli. Stiamo parlando con Parabhakti di Hare Krishna e quindi stavamo parlando dei principi che animano la vita dell'Hare Krishna. Io aggiungo un paio di input. Ad esempio leggo che all'Hare Krishna è chiesto di non praticare sesso se non con il proprio coniuge allo scopo di procreare, non praticare gioco d'azzardo, i nuovi membri devono affrontare un periodo di prova di almeno 6 mesi, i membri segnano tradizionalmente il corpo e la fronte con il tilaka, gli uomini si rasano i capelli lasciando un codino e vestono di color zafferano, come dicevamo prima, se celibi, o di bianco se sposati. E poi c'era una cosa molto interessante secondo me, che dal 2009 anche le donne possono essere maestri Hare Krishna. Questo è vero? Sì, non c'è mai stata in realtà una preclusione in tutto questo. Se voi andate a leggere testi nostri di riferimento trovate delle illustri maestre che hanno diciamo dettato delle linee molto molto importanti nella tradizione. Non è mai una questione fisica legata all'essere uomo o all'essere donna, ma è una questione di caratteristiche, di capacità. Poi voglio dire, attenzione, che di nuovo la tradizione indiana o comunque l'uomo ha fatto degli sfaceli durante il corso del tempo, perché dire che ci sia una parità assoluta nel mondo, nella cultura indiana, tra uomo e donna, ve lo dico già subito io, che non è così. Trovate, diciamo, questa espressione, questo modo di porsi in una maniera molto più reale e democratica qua da noi. Ad esempio, se venite al Tempio di San Casciano scoprirete che non c'è differenza tra quello che fanno gli uomini e quello che fanno le donne. Questo è anche un invito, ovviamente, per i nostri ascoltatori. Vi ricordo che tutte le domeniche pomeriggio noi abbiamo questa festa che viene fatta in tutti i centri del mondo, dove potete venire, potete assistere alle cerimonie, c'è una lezione. Questa domenica in particolare terrò io una lezione sul significato della Bhakti alle 5:30, poi avremo una cerimonia particolare che potete assistere, e il tutto poi culmina con l'offerta di un banchetto vegetariano, quindi potete anche gustare la pratica, in pratica questo cibo, questo prasada, che è questo cibo che viene cucinato per essere offerto a Dio e poi poter essere distribuito a tutti. Molto bello. Diciamo anche dov'è, no? Villa Vrindavana. Villa Vrindavana è a San Casciano, diciamo che per chi viene da fuori l'uscita è Firenze in Pruneta, la ex Firenze Certosa, sapete che è cambiata da qualche mese. E poi veramente bisogna passare il paese di Tavannuto, siamo a 3 chilometri dall'uscita dell'autostrada, quindi è molto molto vicino. Leggo via Scopeti, 106-108. Proprio due indicazioni pratiche: quando si esce dall'autostrada bisogna andare dritti, senza prendere la superstrada per Siena, dritti, e dopo, passato il paese di Tavannuzze, che è il primo paese che si incontra, dopo sulla destra si trova direzione Sant'Andrea Spedaletto, e quella è via degli Scopeti, e noi siamo al numero 108. Benissimo. Comunque vi ricordo il sito villavrindavana.org, dove sicuramente trovate indicazioni e anche il numero di telefono, così magari vi annunciate. Da noi potrete vedere che la maggior parte delle attività, soprattutto legate all'altare, al tempio, sono gestite da devote, da sacerdotesse. Questo, ad esempio, in India non è possibile, perché la loro tradizione culturale crea dei blocchi molto, molto forti. Quindi nei nostri templi in India, nonostante noi abbiamo questa totale apertura e non vediamo differenza fra uomo e donna, vi troverete in India, ad esempio, siamo costretti a seguire quella che è la tradizione, perché potrebbe essere anche pericoloso dal punto di vista sociale cercare di creare degli stravolgimenti improvvisi. Quindi la tradizione dice che non c'è differenza fra uomo e donna, come non c'è differenza di provenienza religiosa. Prima citavamo Chaitanya Mahaprabhu, è interessante vedere come Chaitanya Mahaprabhu annoverò tra i suoi discepoli 500 anni fa dei musulmani. Ma sapete cosa vuol dire 500 anni fa in India cercare di portare un musulmano nella tradizione hindu? Era qualcosa di impensabile proprio, ma lui proprio stabilì questo principio. Credo anche adesso. un pochettino, dipende dove si va, però sicuramente a quel tempo era molto pesante la situazione. Tornando ai principi che noi seguiamo. E anche l'iter, se ce lo puoi descrivere allora, brevemente. Finisco con i principi, quindi l'hai letti tu i principi. Sì. Bisogna, c'è un principio che tante volte lascia interdette le persone in un mondo in cui veramente il sesso rimane sopra ogni cosa e diventa la cosa dominante. No? Quando sentono dire, ma come uno deve fare sesso semplicemente per procreare? Diciamo che questo è l'ideale. No? L'ideale sarebbe che uno dà un piacere. Nessuno può negare il piacere che c'è attraverso l'attività sessuale, ma è un piacere, diciamo, che ha una sua funzione specifica, non può diventare il fine di ogni nostra attività. Non si può pensare di vendere dell'acqua e metterci dietro una donna nuda perché così ne fa vendere di più, perché così stimola un certo tipo di reazione delle persone. Quindi il sesso deve avere una giusta collocazione. Allora, che si può dire? È un percorso evolutivo. Sicuramente una persona che è maturata attraverso il percorso dello yoga, è una persona che ha una maturità, che riesce soprattutto ad avere una stabilità e una felicità interiore costante, non solo a sprazzi, può sicuramente vivere secondo questo principio, che è quello di dire ok, l'attività sessuale è un qualcosa che io relego alla procreazione. E poi in mezzo c'è un reale, c'è il ragazzo di 20 anni che si affaccia alla vita e che semmai non ha questo così profondo controllo dei sensi, ma noi perlomeno cerchiamo di stabilire questo principio per cui le persone devono convivere insieme, creare un progetto di vita, mettersi insieme, e l'attività sessuale diventa un completamento dell'amore, con una direzione precisa che li porterà ad avere delle felicità superiori, che non solamente rispetto a quelle del sesso. Quindi è un percorso, perché buttato lì così potrebbe sembrare semplicemente, ma questi sono veramente dei martiri che fanno qualcosa che non è comune a tantissime altre tradizioni. Sì. Quindi qual è il percorso proprio concretamente? Ecco, cioè un giovane che si affaccia Sì, un giovane che si affaccia che uno vuole diventare Hare Krishna, sì. Beh, intanto non è così stereotipato. Quando noi pensiamo all'Hare Krishna monaco, allora è chiaro che lì ci sono tutta una serie di regole, ma non c'è una preclusione. La maggior parte degli Hare Krishna che potete trovare per il mondo sono semmai persone che vivono e lavorano con voi e semmai non semplicemente hanno degli stili di vita diversi, ma non vi stanno ad assillare con le loro idee e non cercano di convertirli. Questa è un'altra cosa importante: noi non cerchiamo la conversione delle persone. Quando Prabhupada è venuto in Occidente, lui aveva solo come obiettivo quello di aiutare le persone a risvegliare il loro amore. Ecco, voi non avete come obiettivo il proselitismo, no, appunto. Non ce l'abbiamo come obiettivo, non ce l'ha mai avuto, il vaishnavismo non ha mai avuto come obiettivo il proselitismo. Se poi delle persone ispirate da un certo stile di vita vogliono avvicinarsi, vogliono praticare, ovviamente trovano il percorso, trovano gli strumenti per poter esprimersi attraverso il messaggio della Bhakti, ma non è il nostro scopo quello di aumentare, sì. Quindi anche lì si fa difficoltà spesso a quantificare, perché noi non abbiamo il certificato Hare Krishna, no? Quindi se una persona vuole... C'è un'iniziazione però, giusto? C'è un'iniziazione, allora, il percorso è questo, uno si avvicina, vive la spiritualità, la coscienza di Krishna come meglio può e come meglio gli si adatta a lui. Se ha questa predisposizione a poter andare a vivere, a passare un periodo in un tempio, tanto è meglio. Questa è una cosa che noi consigliamo, passare dei periodi all'interno della propria vita, all'interno di una struttura come Villa Vrindavana, dove uno può vivere delle giornate che sono totalmente dedicate a che cosa? Dedicate a valori spirituali. Quindi è una scelta di vita ben precisa. Una cosa è fare un periodo e una cosa è decidere di fermarsi per tutta la vita. Quella è una cosa che diventa poi per pochi. Quindi questo è importante. Quindi l'Hare Krishna non è esclusivamente quello che va a vivere nel tempio di Hare Krishna, che fa l'Hare Krishna, il valore spiritualista dalla mattina alla sera, che si rasa i capelli, che si mette questi abiti indiani, che in realtà hanno un loro scopo, sono abiti molto semplici, quindi anche lì si evita semmai di concentrarsi troppo l'attenzione su quelle che sono le manifestazioni esteriori delle persone. E impara a vivere fondamentalmente una vita in che modo? Con una vita semplice, con dei pensieri elevati. Poi prenderà questo pacchetto, se è una persona idonea a poter mantenere questo tipo di vita per sempre, continuerà a farlo, continuerà a vivere in un tempio. Se invece avrà delle propensioni diverse o vorrà sviluppare la propria vita in un altro modo, andrà a vivere all'interno della società, cercando di essere utile per se stesso e per la società e viverla come tutti la devono, nel rispetto delle regole date, manifestando la propria spiritualità attraverso l'esempio. Ma appunto ci sono più vie, no? Non c'è una sola via, ognuno ha la sua. Come non c'è nessun tipo di limitazione, ad esempio nel canto del mantra. Non è che per cantare il mantra di Krishna bisogna... Il mantra di Krishna non ha limiti di spazio, di tempo, di luogo, quindi uno può cantarlo, e neanche di religione. Io ho religiosi di altre tradizioni che non per questo si considerano, o noi li consideriamo dei convertiti, che hanno adottato delle loro pratiche spirituali il canto del mantra di Krishna, perché il mantra di Krishna è un mantra che va al di là della tradizione religiosa. Quindi non è identificativo se tu canti il mantra diventi... Io non conosco, vi ripeto, conosco diversi esponenti di tradizioni diverse che adottano questo mantra nelle pratiche spirituali, perché li aiuta anche all'interno della loro tradizione a esprimersi meglio. Ecco, sul mantra, che avevo una domanda precedente che poi non ho posto, mi sembra. Mi chiedevo qual è l'importanza delle parole e qual è l'importanza della ripetizione, invece. Cioè, qual è il rapporto, appunto, quanto è importante ciò che si dice e quanto come lo si fa nella recitazione, allora, del mantra. Il mantra yoga è una scienza antichissima, perché quindi questa ripetizione del mantra, intanto bisogna capire cosa uno ripete, perché uno può prendere qualsiasi frase e ripeterla all'infinito, ma provateci, generalmente dopo un po' vi dà noia. Cioè se uno prende una frase qualunque e dice quanto è bello questo microfono e comincia a ripeterlo, non è che semplicemente perché lo ripeti vai in una sorta di trance. Allora, il mantra di Krishna è un mantra, come dicevo, spirituale. Queste vibrazioni sono assolutamente trascendentali e bisogna provare a vedere cosa succede. Vi ripeto, non c'è una limitazione, anche se è consigliato praticare lo yoga e la meditazione in certi momenti della giornata, perché possono essere più favorevoli rispetto ad altri. Ma questo può essere un consiglio. Perché, ad esempio, gli Hare Krishna, come anche gli spiritualisti di altre tradizioni, si alzano molto presto la mattina? Se voi venite al tempio e volete fare un'esperienza, scoprirete che noi ci alziamo alle 4:30, ci siamo già alzati. Ecco, questo era meglio non dirlo. Però può essere un'esperienza. Un'esperienza veramente a volte utile e unica. Ma su questo io cito una frase di Battiato, sì, che una volta in un'intervista disse che a quell'ora, quindi le 5, parlava delle 5 del mattino, l'aria è piena di prana. Sì. Lascio commentare a Parabatta. Quell'ora tecnicamente in senso si chiama Brahma Muhurta ed è circa un'ora e mezza prima del sorgere del sole. E l'ora considerata più carica di prana, quindi di energia, e di vibrazioni spirituali. È considerata l'ora virtuosa, il momento più virtuoso della giornata. E difatti tutti quanti cercano di sfruttarlo al massimo, cercano di essere presenti e vegliare in quel momento lì per poter assorbire l'energia che è presente e poter fare le pratiche spirituali. Questo lo trovate, è una condizione comune. Gli Hare Krishna fanno così, ripeto, ma tutti gli Hare Krishna fanno così? Beh, dipende poi quando uno sì, vive nella città, qual è il suo stile di vita, cosa può fare. Ma tendenzialmente questo predispone a una giornata diversa. Perché mentre ci sono dei momenti della giornata dove sono fortemente carichi di energia virtuosa e positiva, ce ne sono altri invece che sono carichi di altri tipi di energie. Quindi uno deve imparare a conoscere e amministrare la propria giornata secondo la direzione in cui vuole dare la propria vita. Benissimo. Andiamo con l'ultimo brano della puntata? Sì, direi di sì. Allora, ci ascoltiamo degli U2 dall'album Zuropa, questa è la canzone Stay, una canzone tranquilla. Stay with us, perché dopo ci ritroviamo. Certamente. Per i saluti. In onda. No, dopo Stay, vi diciamo di andarsene. Certo, perché... go away. No, bene, abbiamo alcune segnalazioni, sì, prima. Segnalazione. Allora, innanzitutto, martedì prossimo, 6 marzo, ci sarà il quarto caffè laico, organizzato dal Circolo War di Livorno, sul tema il mito di Gesù, una breve presentazione di alcune tesi che sostengono l'inesistenza storica del Gesù, a cura di Claudio Gennaro, ricercatore del CNR di Pisa. Pensavo il fatto che fosse un mito, visto il titolo, Gesù. Il no? Mito, certo. Beh, un mito, ma anche in senso proprio... sì, mitico, sì, esatto. Sì, sì. No, vabbè. Poi, sabato 3 marzo alle ore 18, sempre a Livorno, a Libreria Giunti, quello di prima era l'ex Aurora, come tutti i caffè laici. A Libreria Giunti ci sarà Astrologia, Simboli e Miti, a cura dell'Associazione Archeosofica, ingresso libero e gratuito. E poi volevo segnalare, così, che ho scoperto che su TV2000, che è un canale digitale cattolico, il sabato alle 15.30 e in replica la domenica alle 17 c'è un programma dal nome bellissimo che si chiama Vade Retro, che è un TG di informazione su Diavolo, Sette, queste cose qui. No, a 15 ci fa il verso, sostanzialmente. Perché? No, non so. No, comunque io lo seguirò da ora in poi, quindi... Ecco, io vi segnalo invece il 2 marzo, cioè domani, dalle ore 20 alle ore 22 a Milano, presso il centro Il Mandala, Strada della Carità, la cerimonia del cristallo, una cerimonia dove ognuno è richiesto di portare un proprio cristallino da caricare con le positive vibrazioni della serata attraverso la danza, il canto sacro e la meditazione. Una proposta in risposta alla chiamata di Kiesha, Little Grandmother, affinché portando il cristallo addosso ogni giorno tutti saremo connessi in ogni momento con la grande trasformazione della nostra terra. Per prenotazioni singingglutes@gmail.com. Benissimo, allora noi a questo punto vi salutiamo, vi auguriamo buon appetito, cosa che sì, non facciamo mai fra l'altro, ma ora è più che mai doveroso. Sì, ringraziamo coloro che sono stati con noi in questa puntata anomala e particolarmente interessante, anomala perché è durata più del solito, sì, fino quasi alle 9, interessante perché c'è stato con noi Parabhakti, cioè presidente di Villa Vrindavana, e vorremmo chiedergli di chiudere con una, non so, quello che vuoi dire, una frase, sì, un saluto agli ascoltatori, ti lasciamo libero. Beh, intanto volevo ringraziare tutti voi per avermi sopportato. No, è stato un piacere. È stato veramente una grande puntata. Vi invito veramente a venire a trovarci e se siete interessati ad approfondire questi argomenti che abbiamo semplicemente sfiorato. La cultura vedica, il vaishnavismo è un qualcosa di assolutamente affascinante che vale la pena di approfondire. Questo sia per cultura personale, anche come supporto e sostegno a quelli che possono essere i percorsi che noi meglio ci si addicono, che scegliamo nella nostra vita. Ripeto ancora che noi non abbiamo nessun interesse a fare del proselitismo, abbiamo semplicemente questo interesse ad aiutare le persone, per quello che è possibile per noi, a crescere spiritualmente e a ridare la giusta spazio, la giusta dimensione della spiritualità all'interno della propria vita. Oggigiorno è un argomento difficile perché purtroppo abbiamo degli esempi negativi, a volte dell'uso e della strumentalizzazione della religione, ma sappiate che la religiosità, la spiritualità è un qualcosa di completamente diverso, che può dare una felicità diversa, è un qualcosa che difficilmente si può ottenere in altri modi. Quindi l'invito è venirci, abbiamo diversi modi per essere contattati, forse il più pratico è quello di venirci a trovare a San Casciano, ripeto, via Scopeti 108, all'uscita di Firenze in Pruneta, oppure potete anche contattarci attraverso le email a info@villabrindavana.org oppure visitando il nostro sito villabrindavana.org. Benissimo. Perfetto. Dunque, velocemente i nostri contatti, testacrocesshow@gmail.com, testacrocesshow il contatto Skype, testacrocesshow.blogspot.com il nostro blog, e vi lasciamo dopo una breve pausa a Arena Top Again. Perché non va in onda dietro l'angolo, tornerà dalla prossima settimana. Benissimo, quindi ciao, buon a tutti, appetito, ciao a giovedì. Tutti. Hare Krishna. Hare Krishna.